Sortilegio di anima, ritrovar me stesso perso in un verso d'anima. Io che diverso cammino in un mondo, in un verso perso dentro a me stesso. Sortilegio di anime perse sbandate al vento. Sortilegio di anime in un vento perso. L'ingannatore tempo silenziosa ora bestia dentro, tempesta in ogni mio accento, terremoto dentro l'anima, io mondo ladro che ruba il tempo. Fui fatto diverso, verso il lamento, casa senza tetto, ove piove dentro l'immenso. Come on.